con la Repubblica di Salò arrivano tutte le truppe di Scherani legati ai vari gerarchi fascisti, perché c'era la Brigata Resega, la Brigata Ettore Muti, ognuno legato a un gerarca, avevano questi criminali, la banda Koch, la peggiore di tutti, legati a Pavolini per esempio, certo. Per dire, questo per dire chi erano questi gerarchi fascisti che poi verranno fucilati a Dongo. E oltretutto a Milano c'era ben 20 polizie politiche uguali e distinte, ognuna manovrata anche questa da un gerarca, e questo per dire quello che era Milano. Da un'altra parte bisogna anche dire cos'era accaduto prima, col 25 luglio e soprattutto non tanto per l'effetto del Gran Consiglio che dimette Mussolini, ma per gli scioperi del marzo del 43, a Milano non c'è una soluzione di continuità nell'opposizione fascista, bensì io ricordo quello che mi raccontava un compagno partigiano, Enzo Galasi, che suo padre, comandante delle GAP, aveva detto, diceva: state attenti perché questa non è la fine del fascismo, il fascismo dovremmo abbatterlo noi. Nascono quindi le prime formazioni partigiane ante litteram a Milano, per esempio, non lo so, il 17 dicembre del 43, ancora di resistenza non si parlava, viene ucciso Aldo Resega, uno di questi scherani, da una GAP partigiana di prima formazione. E questa era la Milano, c'erano queste due situazioni, da una parte tutte queste bande di criminali e dall'altra i partigiani che si organizzavano e rispondevano. Vengono fatte delle retate, vengono portati in carcere a San Vittore parecchi giovani, alcuni non c'entravano niente, avevano espresso magari al bar delle opposizioni al fascismo, qualcuno simpatizzava per la resistenza e così via, e vengono sequestrati nel carcere di San Vittore. In questa galera ci sono anche altri, ci sono dei personaggi particolarmente importanti che compariranno poi nell'Italia repubblicana, ma questi personaggi importanti non è che erano sequestrati lì dentro, questi qui erano messi lì a San Vittore perché lì si riposavano, erano fuori da ogni problema, erano garantiti in quel erano garantiti. E facci qualche nome, visto che sono nomi importanti. Poi uno per esempio è Mattei, Enrico, quello, Mattei, esatto. Sì, Enrico Mattei, quello dell'Agip, eccetera, Eni e così via. Ecco, poi ce n'erano altri, c'era Luigi Carissimi, quello che poi inventa il famoso carteggio Mussolini Churchill, no? Che anche questa è una gran buffonata. E ecco, c'era qualche anche qualcuno che poi diventa senatore e costituente democristiano, erano lì dentro, tenuti in protezione nel carcere di San Vittore. C'erano anche dei compagni comunisti, di quali uno, il Cappuccio, che era un abile pittore, riproduce su dei fogli di carta racimolati quali erano anche gli strumenti di tortura che c'erano a San Vittore. Io spero presto di mandare queste immagini a Radio Onda Rossa, così le potrà pubblicare nel sito. A parte questo, cosa succede? Succede che l'8 di agosto, in questi scontri fra bande fasciste, salta per aria un camion dei tedeschi, perché le bande fasciste erano in rapporto feudale con le truppe naziste, dovevano obbedire, qualche volta non piaceva obbedire ai comandi, ma volevano fare crimini di loro, cioè. E quindi così c'è anche questa esplosione di un camion che non provoca vittime. Si ferisce il conduttore del camion, perché ha corso immediatamente per vedere di cosa si trattava, eccetera, viene leso leggermente. Quindi una faida interna ai nazifascisti, questa. Una faida interna, sì, una faida interna fra loro. E però viene preso l'idea di fucilare un partigiano ogni martire, ogni morto nazifascista. Tranne che la cosa, come le fosse ardeatine, non viene rispettata. Vanno a San Vittore, scelgono alcuni, lasciano quelli protetti, prendono questi ragazzi, 15 partigiani, o cosiddetti partigiani, ma comunque abbastanza legati a quello che poteva essere la resistenza, li portano a Piazzale Loreto, il mattino alle 6 vengono fucilati. Vengono fucilati e lasciati lì per oltre una settimana per terra, dove quelli dell'Aldo Resig andavano a sputtargli addosso e invitavano anche i milanesi ad andare a sputtare su questi, dicendo: siete dei banditi, vi abbiamo preso con le armi in mano, vi abbiamo trovato che stavate uccidendo dei nostri camerati e cose di questo genere. Io ho dei ricordi di questo tipo anche di persone che abitavano a Piazzale Loreto. Allora ragazzini che hanno visto queste cose sono stati stravolti da questo fatto. Questo non sia mai, i milanesi non l'hanno perdonata al fascismo. Se pensiamo che a Milano ogni via, su ogni lato di via, fino a poco tempo fa, perché poi sono state rimosse o perché abbattuti gli edifici o perché rimosse così per volontà politica, c'erano lapidi di un partigiano ucciso, possiamo quantificare quanto fosse a Milano l'opposizione al fascismo. Niente, comunque lì avviene questa cosa. Per spiegare perché Mussolini viene appeso lì, quando Mussolini viene caricato su questo camion già ucciso a Giulino di Mezzera, Giulino di Mezzera succede questo. Viene portato Mussolini, non si sa perché, qualcuno lo vuole processare, qualcuno lo vuole fare l'esecuzione immediata, arrivano gli americani, arrivano gli inglesi, incominciano a trattare, si dice che ci fosse Longo, in realtà Longo c'era perché quell'altro non, era proprio nessuno, e incominciano a trattare, se non che il Moretti vede che le cose si mettono male, prende il mitra e spara. La Claretta Petacci, che era lì vicino, si butta in mezzo e muore anche lei. I cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e degli altri gerarchi fascisti che già erano stati fucilati a Dongo sono caricati su questo camion della tintoria Pessina di Como e condotti a Milano, dove chi guidava questo camion era Mario Ferro. Mario Ferro era un piccino, uno del PC di alta fedeltà, morto senza mai rivelare tutto quanto era accaduto, e anzi mistificando anche le cose, porta questo camion a Milano. Quando il camion giunge a Milano, in Piazzale Maciattini, che era all'estrema periferia nord di Milano allora, anche se una periferia molto, molto sviluppata, trova chi? Tutti i milanesi, la folla di Milano, che costringe il camion ad arrivare in Piazzale Loreto. Qual era il motivo di questo? Il motivo di questo era il fatto che il CLN voleva che i corpi di Mussolini fossero portati al cimitero di Musocco, corpi di Mussolini e degli altri, fossero portati al cimitero di Musocco, e lì ci sarebbe stata la grande manifestazione che i partigiani avevano catturato e ucciso Mussolini e così via. Invece no, la popolazione milanese vuole che vengano portati in Piazzale Loreto, dove c'era stato questo grave eccidio, e messi ed esposti lì alla visione di tutti. Come erano lasciati quegli altri corpi, vengono così esposti i gerarchi fascisti e Mussolini e così via. Ecco, questo è il motivo, per le anime belle, per quelli che dicono: ah no, ma non dovevano farlo. Questo è stato quanto è avvenuto, in sostanza storicamente dimostrato. Certo. Ci stanno sempre, ci sono quindi tuttora testimonianze di questi fatti, di gente che le ha vissute da ragazzino, 10 anni, 11, 12 anni, così, no, che possono dire cosa è avvenuto. Certo. C'è sempre quelli che vogliono ripulire la storia e farla ci sono quelli che vogliono ripulire la storia. Io stamattina, per dare un'occhiata, per vedere anche cosa dice la controparte, stavo sfogliando quel libro Passional Cialtrone di Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, che racconta di Milano una storia che non è vera. Milano non era quello che racconta lui in quel periodo, era ben altro. Cioè, probabilmente lui si è fatto, non so, cioè, i quattrini, sai, insomma, così, pecunia non ole. Sì, infatti, quando ha cambiato casacca ha cambiato anche la memoria. Arriva la crisi, bisogna racimolare dove si può, per forza. E scrive Stefan Doni. E non è il solo, purtroppo sono tanti che cercano purtroppo è che questo libro qui ha liquidato proprio la memoria, perché ne è stata fatta tanta propaganda, no, che la gente è andata a leggere questo e si è dimenticato tutto il resto. Qualcuno addirittura di quelli che hanno assistito lì dice: no, ma forse qualcosa aveva ragione, perché c'era, ma c'era proprio niente. All'atto dei fatti, della documentazione, non c'era proprio niente di quanto racconta lui. C'è proprio pagine da prendere e strapparle, non se ne salva una. È il revisionismo storico che ormai va alla grande, purtroppo, e noi nel nostro piccolo, con i nostri piccoli mezzi, cerchiamo però di frenare, di riportare la memoria a quella che è stata lo scontro, che è stata una guerra civile dura, pesante, violenta, ovviamente non poteva non esserlo, con questi episodi che vanno riportati nella loro interezza, perché rappresentano le passioni e anche la volontà di cambiamento di una popolazione che ha vissuto 20 anni di regime fascista, e soprattutto l'ultimo periodo che era stato agghiacciante. Milano poi ha sofferto veramente la parte più feroce dell'occupazione nazifascista. Ma sì, lì a me raccontavano gente che ha vissuto questi momenti, no, che passavano queste squadracce, trovavano un ragazzo che probabilmente poteva essere, forse eventualmente sospettavano, magari, non so, aveva detto qualche cosa fuori luogo, colpi di mitra, lo abbattevano fuori dalla porta di casa, e poi dopo hanno messo le lapidi, che oggi non troviamo più, oppure ne è rimasta qualcuna, c'è stato chi è andato a recuperarne alcune. Ma io ricordo negli anni 70, vado a questa manifestazione 10 agosto Piazzale Loreto, e un partigiano mi dice: vieni che ti faccio vedere cos'era Milano. E lì ci mettiamo a camminare per le strade di Milano, quella sera me la ricordo caldissima, che camminavamo lì per le strade, lui mi diceva: vedi questo, e mi raccontava chi era questo di cui c'era la lapide, vedi quest'altro. Insomma, abbiamo passato fino a tarda mattina a cercare lapidi di partigiani uccisi. Ecco, questo è un po' il mio ricordo personale, ma anche degli atti storici di cui... È importante, perché anche non ne ha parlato nessuno, e prima l'ascoltatrice che giustamente ha fatto notare che avevo sbagliato dicendo che Mussolini era stato giustiziato a Piazzale Loreto, perché invece era stato portato già morto, ricordava, perché io gli ho detto: vabbè, ma quindi questa cosa a te risulta che qualcuno ne ha parlato dell'eccidio del 10 agosto, e lei ha detto: in effetti l'ho sentita in una trasmissione televisiva, non so, quella sulla storia, alle 3:30 di notte. Ora, quindi l'hanno detta, per cui uno non può dire la televisione non ne ha parlato, ne hanno parlato, ma alle 3 di notte. Ecco, questo dimostra veramente la cialtroneria anche dei media pubblici, quelli che poi paghiamo noi, che perché dirla alle 3 di notte è come non dirla, per una cosa, no? E i giornali non ne hanno parlato, insomma, questo silenzio agghiacciante. Poi uno la sente di notte, magari è stanco, pensa di aver sognato il mattino, infatti, dopo non se la ricorda. Infatti normalmente la gente alle 3 di notte dorme, insomma, chi deve lavorare. Vabbè, ti ringrazio, Gavino, per questa lucida esposizione, un pezzo di memoria che mettiamo lì a beneficio di chi sa che il ricordo del passato serve per andare avanti nel presente, quindi, e soprattutto di lottare contro questo revisionismo storico che è imperante oggi, è veramente spaventoso. Sempre avanti, un abbraccio a tutti e libertà per tutti e tutte. Grazie, Gavino, ciao, buona giornata. Ciao.